che spesso occupa e preoccupa le prime pagine dei giornali. Afghanistan, il grande gioco, dal 14 al 18 giugno all'Arena del Sole di Bologna. This is not an exit. Digressioni musicali dalla fine del secolo breve. Buonasera a tutte e a tutti, siete collegati in diretta con Radio Città del Capo per questa puntata. Stavolta davvero parliamo di qualcosa di italiano. Salutiamo intanto anche Babe. Beh, buonasera a tutti, buonasera dottor Scarpa. Buonasera. Una puntata, come dire, da lacrimuccia. E come dire, quando si era giovani giovani, Ma i Mau Mau erano un gruppo molto allegro, parleremo di loro questa sera, molto importante per l'inizio degli anni 90. Sembravano, sono passati 25 anni, ma sembrano passati eoni, nel senso che almeno dal punto di vista delle aspettative di quel che si respirava in quegli anni è cambiato un bel po'. E sembrava che c'erano Mani Pulite, tanto per contestualizzare ingenuamente il periodo. Berlusconi non era ancora in politica, ma qualcosa stava cambiando, ma sembrava in meglio nel 92, c'era stata la Pantera, poi... E credo il muro di Berlino, che comunque, no, avvicinava l'Europa, insomma, sì, dell'Est. La guerra del Golfo era finita, purtroppo ne stava nella cominciata un'altra molto più vicino a noi, ma insomma... Però i Mau Mau davano un senso di positività, anche perché nel loro mescolio ti davano un'apertura, erano tutto fuorché un gruppo provinciale, eppure venivano dalla provincia grande. Bye. Eccoci ancora qua, sempre in compagnia di del dottor Scarpa, del sottoscritto. Questa è This Is Not An Exit e siamo in compagnia dei Mau Mau, ma quelli che avete appena ascoltato non erano ancora i veri e propri Mau Mau, bensì i Loschi Dezzi. Siamo nel 1991 e, come dire, i Mau Mau erano ancora lì, non distanti, poi sarebbero nati l'anno dopo. Però Luca Morino e Fabio Barovero, che erano il cuore pulsante dei Mau Mau, erano già nei Loschi Dezzi e già fondevano un sacco di cose. Era un bel periodo, il 1991, per Torino. Poi tenete conto che questo disco fu prodotto da Max Casacci, che poi sarebbe diventato il produttore Deus Ex Machina a sua volta dei Subsonica, e Madaschi degli Africa Unite. Quindi, come dire, c'era parecchio fermento e soprattutto, molto bello, i gruppi, anche di diversa estrazione, collaboravano parecchio tra loro. E poi, chicca tra le chicche, tra le coriste c'era addirittura, non lo sapevo, l'ho scoperto oggi, Luciana Littizzetto. Eh sì, è iniziato bene la Lucianina con la musica di Loschi Dezzi. Sì, comunque, a pensarci bene, noi, quei pochi gruppi italiani che abbiamo trattato in questa trasmissione, quasi il 50% viene da Torino, perché abbiamo affrontato il discorso Negazione, quindi un certo hardcore italiano, poi abbiamo affrontato Africa Unite, che vengono da Pinerolo, comunque sempre nei dintorni di Torino, che fanno reggae, e Loschi Dezzi, insomma, che fanno Loschi Dezzi, sì, e Mau Mau, una specie di pachanga. Quindi comunque a Torino accadeva di tutto, tutti i generi musicali venivano fatti a buoni livelli, insomma, per essere la scena italiana. E magari le Grace Verto e Pogs il discorso avevano già fatto qualche anno prima nei dintorni di Torino, insomma in Francia e in Inghilterra, però i Mau Mau hanno fatto dei bei lavori, insomma, anche grazie agli amici torinesi. Passeo, passeo Colón, la via le lunga, la terra rotonda e sull'ora e l'unurzes al guernatur, cavapi dausin al paradis. Al paradis. Che le anime pie, ma senza turment, a su nenda basta venta forse la gente, a su brete bestie che mangiu il buono, ma le ci sta, le ci sti, se sti, se sco. Che ho mal attraversato. so gran trafiche alle stai chiel al prim a fene il meste tomatiche russe con al sandi indiane e patate gretelue di caribe bastuna bastuna. Che carriavi gli sciau le grassie dal papa e con la smania dal diau che zimma le vede dietro tempe la santa famiglia l'inquisizione Passeo, passeo colon, la via delle lunga, la terra rotonda e sull'ora e l'unurze sal guernatur, cavapi d'ausin, cavapi d'ausin al paradis. Colon gran cuiun, alan fate il monument, l'Europa di re, le regine puten, il pesa le propi che lui su macà, la festa c'è sta festa di popoli massacra. Eccoci qua, ancora in giro con loro, perché era una musica di viaggio quella di Mau Mau, o quantomeno parlava già di migrazioni, che per il 1992, come dire, era un tema abbastanza nuovo. Certo, ci ricordavamo magari di qualche nostro parente che era emigrato, e arrivavano i primi immigrati. Poi, cosa nuova per un gruppo italiano, non è tutto nuovo, ma abbastanza inconosciuto per l'epoca, era la presenza di un percussionista camerunense. Tra l'altro, un signor percussionista che aveva già una grande carriera alle spalle, si chiama Tatten Songan, ricordo che Mau Mau sono ancora in giro, ed era sempre stato il motore propulsivo dei Mau Mau. Portava qualcosa che, appunto, parlavamo prima, di che erano un gruppo poco provinciale, perché si facevano produrre a Torino da un sacco di loro amici conterranei, ma poi il missaggio di questo disco che stiamo ascoltando fu fatto alla Real World di Peter Gabriel. Peter Gabriel, oltre ad essere un signor musicista, aveva fondato la Real World, importando e producendo tantissimi musicisti da tutto il mondo. Insomma, arrivare a quello studio non era poco per un gruppo italiano, tra l'altro l'esordio. Beh sì, a pensarci bene, loro fecero proprio uno scarto rispetto ai loschidezi. I loschidezi parlavano alla fine di quartiere, no? Le piole, come si dice a Torino, appunto. E quindi era una battaglia fra ragazzi, storie così, abbastanza adolescenziali. Invece con i Mau Mau totalmente, insomma, si spostano davvero versanti molto, molto lontani. E parliamo anche di scenari mediterranei, come era stato anche un discorso di Andrea e Fossati per parlare di grandi maestri, ma anche esotiche fantasie, insomma, anche alla Paolo Conte, insomma, la scuola un po' del Piemonte, quella lì, che si parla un po' di provincia, però con paesaggi immaginari, quelli che vanno oltre sicuramente al Piemonte. Sì, perché la faccia un po' così dei piemontesi che hanno quando arrivano a Genova, ce l'avevano anche loro. Thank you. Spanish. Minuti primi, siete sempre su Radio Città del Capo, stasera Mau Mau da Torino. E Mau Mau comunque alla fine, se ci pensiamo bene, leggendo i testi, nascono specchiandosi in Torino, molto nella loro città, nelle contraddizioni appunto col passato, insomma, rappresentato dal vecchio mercato popolare del Balon, che poi si proietta verso il futuro. E che poi ormai come un succo medio orientale, no? Tutta l'immigrazione che non è più dal meridione ma è dal Medio Oriente, appunto dal Maghreb. E quindi c'è questa cosa che loro poi si rispecchiano nella musica e prendono suoni appunto dal Medio Oriente, dal Mediterraneo, dal sud del Mediterraneo, non più quella scena che era tipica del torinese. E quindi, a pensarci bene, è un gruppo che integra, avendo anche all'interno un artista africano, un senegalese appunto. Sumaden cambia, Sumaden cambia, Sumaden cambia. Sumaden cambia, Sumaden cambia, Sumaden cambia. Sumaden cambia, Sumaden cambia. Sumaden cambia, Sumaden cambia, Sumaden cambia, Sumaden cambia, Sumaden cambia, Sumaden cambia, Sumaden cambia, Sumaden cambia, Sumaden cambia, Sumaden cambia, Sumaden cambia, Sumaden cambia, Sumaden cambia. Sumaden cambia, Sumaden cambia, Sumaden cambia, Sumaden cambia, Sumaden cambia, Sumaden cambia, Sumaden cambia, Sumaden cambia, Sumaden cambia, Sumaden cambia, no no no, Sumaden cambia, Sumaden cambia, Sumaden cambia. Papi poveri cinque sei pi malordi non si usa Sumaden cambia, Sumaden cambia. Che spiscia via lontano e va e va e va e va e va. E storta sta faccenda pina, ciche storte, densa come Sandan, Santa Daitamal. È un gioco di castri, un sorriso verticale, doccia dopo doccia, facce contro facce. Ale destincustare a vorticusa, ma è cavata al sul in questo mondo nero. Mai, mai, mai, mai, mai, questo mondo nero. Mai, mai, mai, mai, mai, nero, nero, nero. Nero, nero, nero. Nero, nero, nero. regala rendezvous su scale, uno che si sdoppia e poi ritorna uno, l'attimo più lungo, quell'attimo sospeso, appeso con un gancio, un taglio malinteso. Incustare a vorticosa, mai cavata al sole in sto mondo nero, mai mai mai mai mai nero, nero, nero, nero, nero, nero, nero, nero, nero, nero, nero, nero, forse sì o forse no. Sempre in diretta su Radio Città del Capo, stasera facciamo ascoltare Mau Mau e anche un po' di Roschi Dez, perché tutto da lì parte, insomma, dai quartieri periferici di Torino, che si stavano comunque svuotando un po' perché la Fiat non assumeva le grandi numeri degli anni 60-70. No, la grande immigrazione dal sud Italia era finita, anzi la Fiat era nella sua seconda crisi epocale. All'inizio degli anni 90 la Fiat navigava veramente in cattive acque e probabilmente fu salvata finanziariamente grazie alla svalutazione che ci fu. Il governo Amato nel giro di pochi giorni svalutò la lira del 27%, giù di lì, e ovviamente le punto appena lanciate sarebbero state vendute in Europa con uno sconticino del 27%, non poco. Poi loro comunque la piemontesità la volevano farla sentire appunto parlando in dialetto, tanto che loro si impuntarono perché la EMI aveva chiesto il primo pezzo dell'album appunto di farlo in italiano. Loro categoricamente si rifiutarono perché volevano che l'album fosse al 100% in dialetto piemontese, torinese, quindi per rimarcare appunto la loro provenienza. Lo Schidesi prima ancora parlavano proprio dei personaggi piemontesi torinesi che non c'erano più, tipo la Molita, che era la rodina ambulante, in dialetto piemontese appunto la Molita e la rodina ambulante, e parlavano delle piole, dei quartieri, no? Moto d'anguilla, insomma tutte queste parole dello slang torinese che nessuno, cioè se non nascevi là, nessuno poteva riconoscere, però loro ne parlavano, e poi chi aveva la curiosità di capire cosa volessero dire si facevano magari aiutare da qualche amico piemontese. We'll be right back. divente. Di geografia. E questa era Buzz Paradise, secondo album. Alessandro ci ha addirittura richiesto in diretta radiofonica. Beh, qua siete sempre su This Is Not an Exit, 10-5 di questo giovedì sera di giugno. E i Mau Mau ci stanno particolarmente bene, molto estivi, o comunque mi ricordano un sacco di festival estivi, giravano tantissimo, facevano tantissime date in tutta Italia e tipicamente in estate spuntavano, facevano veramente tutte le regioni dal nord al sud. Beh sì, sicuramente anche quelle, specialmente magari d'estate, le regioni meridionali, ricordo insomma gli happening che avvenivano in quelli Torre dell'Orso, Sant'Andrea, insomma, e sicuramente anche lo Schidezi e successivamente Mau Mau, e la scena era sempre quella, tanta gente, insomma, ci si divertiva. Si ballava un sacco. E si ballava un sacco. Il nome Mau Mau deriva dai rivoluzionari, insomma, un gruppo terroristico, se vogliamo chiamare, per l'indipendenza del Kenya, quindi erano dei kenioti incazzati che facevano a pezzi i colonizzatori inglesi, quindi gente abbastanza incazzata. In Piemonte gente seria. Gente seria, poi in Italia fu insomma assunto il nome per definire i neri, insomma i meridionali o comunque i vagabondi, insomma, gli ultimi, ma non solo in Piemonte, perché anche in Puglia Mau Mau veniva usato per indicare appunto i neri, insomma, o comunque gli strani del posto. Senza fermate, siamo uno sciame di calabroni coi pungiglioni. Ora uno sciame di calabroni. Ed io ti chiedo, sai che succede? Chi troppo e chi niente? Il sole per tutti. Strana è la vita, la terra brucia mentre il fiume straripa allora. Fine. E chi sta sotto batte botte. usa belan carne riguiusa e raffina prepotenta come la dora. Sempre pronta nella ghe vai all'occorrenza per la rega per la tuneba batti l'astra perché maoneta fa grasse. .05 minuti primi, sempre in compagnia di Mau Mau e insomma questa bella paccianca, possiamo dire, qualcosa che sì, sicuramente in Francia si era già sentita con Manu Chao, Negres Vert, è arrivata un po' più in ritardo come sempre insomma in Italia con i Mau Mau e, per una volta però è stata una buona imitazione, diciamo così, anzi sicuramente loro validi come artisti e anche comunque con col percussionista senegalese insomma e, i testi insomma erano quelli in piemontese, quindi chi li capiva bene, chi non li capiva si faceva aiutare e, ma abbiamo anche magari qualche frase che veniva, no, da Luca Morino che... Ma sì, abbiamo recuperato una vecchia intervista di quegli anni, del 94, quando uscì appunto Bas Paradis. A proposito, avete appena sentito Balloon Combo, il quartiere di Torino di cui abbiamo parlato precedentemente e a cui ovviamente i Mau Mau non poteva mancare di dedicare proprio un brano. Venivano spesso accostati ai Negres Verts e a quel punto Fabio rispondeva con ancora i Negres Verts, chiaramente contento, che niente in contrario, per carità, ma dovendo proprio per forza essere accostati a qualcuno oggi per un sacco di buone ragioni preferiremmo che si facesse il nome, che so, degli African Head Charge, dei buon gustà insomma. Su tale stele se al via vai, mai silenzios. I am mist, na confusion, a ratatui, gran calderon, renga, renga, renga, renga, renga, renga, renga, renga, renga, renga, renga, renga, renga, renga, renga, renga, renga, renga, renga, renga, This Is Not an Exit, 22 e 15 minuti primi. Cosa dicevano a proposito di Baspra di Mau Mau nella sua uscita? Ricordo uscì verso la fine del 93, inizio del 94. Baspra di, a leggere così, sembrava quasi un titolo da band inglese, stile Orb. Abbiamo fatto la puntata un anno fa sugli Orb, il paradiso dal basso. Invece no, Baspra di è piemontese, c'è un accento sulla A che fa la differenza. In italiano sarebbe un po' come dire il paradiso basso, nel senso di quello che succede sulla crosta della terra in contrapposizione con il paradiso alto che ci insegnavano al catechismo, quello riservato ai morti più buoni. Noi raccontiamo un paradiso molto vivo, passionale, che può essere al tempo stesso cupo e solare, triste e bellissimo. Se vuoi, è il cercare di restituire alla vita quotidiana quella dimensione religiosa che ti permette, tra virgolette, che ti permette di vedere oltre una storia fatta per lo più di gruppi, bande, popoli in lotta fra loro. Quindi non è una semplice visione ottimistica di paradiso in terra. Perché no? C'è anche quello. Quando riabiliti la fatica quotidiana e sai che ciò a cui devi tendere è una tranquillità che risiede nel tuo rispetto dei bisogni e delle esigenze reciproche, hai già trovato il tuo paradiso in terra. Certo, il nostro Bass Paradise non è un paradiso che si accontenta del guardare, del guarda che cielo, guarda che mare, è finita lì. È un paradiso problematico, un paradiso consapevole di quanto sia difficile la convivenza tra le persone e costantemente presente la paura del diverso, dell'altro. In questo senso è un paradiso che va conquistato giorno per giorno, faticosamente, ma non per questo diremmo che è un paradiso pessimista. A cura un presas mio senza gran peis. Le religion false dal ters millenni andò a per vende il benesse d'ausen aspetta a mostra al malase lontan dei altri il uma vista il coraggio e gli sforzi chi ha combat per le solite robe narfugi na terra da mangè d'ande a scola che i dindavurei e bin è strano ma vero sto su una via salata in equilibrio isterico tra il mare grosso e la terra sto a raccogliere quello che si è arrotondato sfregando qui casa stormo la testa ant la sabbia e tutt l'on ca fan a lei grate sei cul a fan finta niente avan sempre avanti la mele e la fel a smes ciupan sema andando in giri le viste tante storie di certi avan fin a un fund altri all'assu a smian film a frontiera mi impreparo per la resistenza questa è la via salata dove ogni ansia si impolverà svaporazione benefica con la sal che preserva da forza e corrode le cose ai cardone, alle parole, ai cardone, alle teorie, cardo papi, a cule masche, ai faraoni eletti dalla televisione. Salata in equilibrio isterico tra il mare grosso e la terra sto a raccogliere quello che si è arrotondato tamburo. Si chiama Mau Mau. Ah bene, i ritmi dei selvaggi. Ora fate il vostro spettacolo di folklore e poi tornate giù, vero? Veramente cantiamo un dialetto piemontese in Italia. E poi abito qua da 10 anni e pago anche le tasse. E tu li paghi? Oh, suppa folmi! Ho ascoltato brani dall'album Bass Paradise. E il disco ebbe successo naturalmente anche a livello commerciale, e però dopo il tour appunto di questo disco, l'Acustica Tribù, insomma il gruppo, lo zoccolo duro, insomma un po' si sciolse, perché vediamo Andrea Cecconi, il trombettista, che va a fondare le Voci Atroci. E Davide Graziano, il batterista, va a entrare nelle Africa Unite, e Davide Rossi, il violinista, diventa insomma a tempo pieno allievo di Robert Fripp. Quindi tre del gruppo storico vanno via. L'album successivo, il terzo, Viva Mamma Nera, è totalmente diverso, insomma il gruppo cambia, ci stanno insomma varie vicissitudini col terzo disco. Loro rimangono sempre in giro, Mau Mau sono ancora in giro come dicevamo prima, quindi il gruppo è risorto un po' insomma dalle ceneri. Sui tagli e i ritagli del tempo e sull'equilibrio precario delle cose. Sugli occhi che guardano in alto e cercano e ridono e cercano. Voci che volano in alto e chiamano e sfidano e poi chiamano e sfidano. Sei nen come di mi e era furioso. E salia gnanca. Perché? Verde rettangola, mi scoppia la curva. Tremiamo di paura e ci casiamo a meraviglia. Il derby è come fossero Pasqua e Natale, feste inventate per farci dimenticare. Così ci stava scappando l'orologio, nel senso che ci stava scappando l'orario, 22:28 minuti primi, quasi 29. Qua Radio Città del Capo, grazie per l'ascolto a tutti e tutte. Sì, ci riascoltiamo giovedì prossimo, quindi. Ci riascoltiamo esattamente, giovedì prossimo sempre alle 21:05 giù di lì, sulle nostre frequenze. Buonanotte a tutti. Ciao.